Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, buon lunedì, siamo insieme, sono le 11.09 con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. 800 24 0024, il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Oggi parliamo di quello che un tempo venivano chiamate malattie venere, oggi invece si chiamano infezioni sessualmente trasmissibili. Sono tante, diverse tra loro, si devono conoscere, si possono, anzi si devono prevenire e curare. Ne parliamo oggi col professor Mauro Moroni, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Docente di malattie infettive all'Università di Milano e presidente dell'ANLAIS Lombardia. In studio con me abbiamo anche il dottor Del Monte, responsabile del centro di malattie sessualmente trasmesse, la sigla è questa, però sono cambiate, vero? Non si chiamano più così, presso la clinica dermatologica dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino, e in studio per il consueto appuntamento mensile Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, il mensile della Mondadori, che a questo tema dedica nel numero in edicola un ampio servizio. Alessandro, ciao, benvenuto. Ciao Nicoletta, grazie. Allora Alessandro, iniziamo dai dati che parlano chiaro ed evidenziano un aumento significativo dei casi. L'avete riportato sul vostro articolo, diamo i più importanti. Allora, sì, purtroppo le malattie a trasmissione sessuale o l'infezione a trasmissione sessuale aumentano. Noi naturalmente siamo preoccupati, non voletecene, soprattutto per le nostre lettrici, che in maggioranza sono appunto donne, perché sono, diciamo, il primo fronte che ha a che fare con queste malattie, anche perché come ho scritto e come mi ha detto il dottor Del Monte, purtroppo gli uomini, finché non hanno sintomi, non si sentono malati, quindi non si fanno vedere. Questo è un grosso problema. Comunque i dati, come dicevi tu, parlano chiaro. Il 46% sono gli ultimi dati che abbiamo sulle donne contagiate da malattie sessuali che si sono rivolte a un certo pubblico specializzato come quello del dottor Del Monte. Sono centri che si occupano solo di malattie a trasmissione sessuale e, diciamo, hanno come figura principale, anzi se non unica, il dermatologo venereologo, che è la specialità, l'origine della specialità della dermatologia. 23% di queste donne sono alla seconda visita, quindi 2 persone su 10 hanno già avuto a che fare con virus o batteri che hanno a che fare con questo tipo di malattie. I dati della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia invece ci dice, ci aprono un altro fronte, che è quello dei più giovani. Il 37% sono i giovani che alle prese con la prima volta che non usano il preservativo, e fai conto che il primo, fra i 15 e i 18 anni, 6 ragazze su 10 hanno già avuto la loro prima volta, quindi sessuale. Si è abbassato il livello, cioè l'età del primo rapporto, e non è migliorata la situazione da un punto di vista di prevenzione. Ultimo dato molto allarmante, un dato a cui teniamo sempre perché c'è gente che scrive sui blog: ma l'AIDS esiste ancora? Sì, esiste, come? Gode di buona salute, purtroppo, perché... ed è un problema perché il 50%, cioè la metà delle nuove infezioni da HIV, cioè il virus dell'AIDS, colpiscono gli uomini eterosessuali fra i 40 e i 50 anni. Quegli uomini che sono un po' a caccia d'avventure, oppure i ragazzi alle prime armi, e quindi torniamo qui nella fascia di rischio che avevamo sottolineato prima. Questi dati li avevamo in parte anticipati, no, professor Moroni, proprio in una puntata tutta dedicata all'AIDS, in cui cambia un po' il profilo della persona a rischio, eterosessuali, oltre i 40 anni, quindi in cerca di avventure, come dice Alessandro. Ma io vorrei proprio soffermarmi su questo cambiamento, oltre che ai numeri. Sono cambiate anche le persone, sono persone insospettabili, dottor Del Monte? Sì, sicuramente negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento della persona infettata. Si è superato il concetto di categoria a rischio in favore del concetto di comportamento a rischio. Questo ci fa uscire un po'... Non sono più ghettizzati. Sono più ghettizzati. Il comportamento a rischio può essere definito come quello di chi non usa il preservativo o lo usa in modo scorretto, ma non solo, ha anche un numero elevato di partner, ha un ricambio elevato di partner. e ha rapporti spesso con partner non esclusivi, che poi hanno rapporti con certo, altre persone. Perché arriva, si produce un effetto moltiplicatore, ma professor Moroni, io avrei bisogno di lei, perché sono in aumento, sono molto diffuse, nonostante le campagne di prevenzione, per molte sono ancora un tabù, perché l'argomento è scottante, non è facile parlarne con il partner, con il medico di base, e per molti chiedere informazioni diventa veramente difficile. Così si preferisce un po' raccontarsela, no? Raccontarsi o rassicurarsi con luoghi comuni. Passiamone alcuni in rassegna. C'è chi dice che si possano prevenire con un'accurata igiene, no? È pulito e quindi non mi infetta. Professor Moroni. Ma l'igiene serve sempre, certo, ovviamente, serve per tutte le malattie infettive, da quelle a trasmissione sessuale, aerea, alimentare, per contatto, eccetera. Purtroppo non basta. Il rapporto sessuale è stato concepito in natura proprio come una manovra che permette lo scambio di materiali biologici. Quindi da un punto di vista così della trasmissibilità è un qualcosa che equivale a una piccola trasfusione, non una trasfusione di sangue, certo, ma a una trasfusione di un materiale biologico che può essere contaminato, lo sperma di un uomo oppure le secrezioni vaginali per una donna. Pensiamo a quante attenzioni vengono poste nelle trasfusioni e quante poche attenzioni vengono poste invece in un rapporto sessuale. Il rapporto sessuale mette a contatto due mucose e le mette a contatto nelle condizioni migliori per trasmettere un microorganismo da una mucosa all'altra, perché proprio la dinamica del rapporto sessuale completo penetrativo è tale da rendere molto facile il contatto stretto, il contatto ripetuto, il contatto reiterato tra due mucose, una suscettibile di contrarre un'infezione e una in grado di trasmettere un'infezione. Quindi l'igiene sicuramente basta, aiuta ma non è assolutamente sufficiente. E c'è chi ancora pensa, Alessandro, tu l'hai evidenziato, soprattutto con i ragazzi giovani, che magari alle prese con le prime armi, che c'è chi pensa che un rapporto non protetto, magari quello della prima volta, non sia sufficiente per essere a rischio di infezione. Questo è una credenza diffusa tra i giovani, ma non solo, anche non tra solo, le persone adulte. Solo. Poi c'è da dire che ritorno un attimo alle donne, e c'è un discorso anche anatomico, no professore, no dottore, certo, per cui voglio dire, voi siete più esposte, avete un'uretra, cioè il canale dal quale passa l'urina dalla vescica, che è molto più corto del nostro, quindi anatomicamente non siete meno difese. E sui giovani, fra l'altro, poi abbiamo scoperto sempre, c'è stato anche un caso di arresto in Inghilterra, che è un'altra delle consuetudini che si stanno consolidando, ma forse stanno tornando, è quella di regalare, diciamo, a quelli un pochino più imbranati, la classe si coalizza e regala un rapporto sessuale, diciamo, con una professionista. Ecco, anche questo è una new wave che non è proprio l'ideale dal punto di vista di prevenzione sessuale. C'è chi pensa, il professor Moroni è stato molto chiaro, e mi sembra che lei ci abbia, così descrivendo la situazione, ci faccia riflettere, ma c'è chi pensa che si trasmettono solo ed esclusivamente con rapporti sessuali completi. Professor Moroni, è così? Beh, qui bisogna entrare un po' nel dettaglio. Alcune infezioni si trasmettono solo attraverso un rapporto sessuale completo penetrativo. Questo è per esempio l'epatite B o il virus dell'HIV, come si diceva prima. Altre infezioni come la lue o la gonorrea, alcune uretriti cosiddette non gonococciche, il tricomonas, si possono contrarre anche senza un rapporto completo, perché basta il contatto tra la pelle delle due persone, tra la cute delle due persone, oppure i genitali esterni che possono essere di per sé già infetti e infettare un altro. Certamente il rapporto completo è il più pericoloso, ma attenzione. Dottor Del Monte, alcune di queste malattie sono ben visibili. Altre presentano dei sintomi più sfumati o di più facile interpretazione, almeno per i non addetti ai lavori. Altre ancora possono restare per molto tempo silenti e poi venire diagnosticate solo attraverso degli esami specifici. Diamo un quadro, perché io vorrei proprio sottolineare che le infezioni sessualmente trasmissibili sono veramente una famiglia di malattie molto diverse da loro a livello di sintomi, contagiosità, decorso, gravità e naturalmente anche terapia. E quindi ci possono aiutare anche i nostri amici da casa con i loro dubbi all'800 24 00 24. Ma dottor Del Monte, certamente, innanzitutto bisogna distinguere le malattie batteriche, in cui l'infezione avviene soprattutto quando c'è un comportamento a rischio, quindi un contatto non protetto, dalle malattie virali, in cui invece entrano in gioco anche le difese immunitarie. In questo secondo caso, che poi sono l'herpes genitale e i condilomi genitali, non sempre a un contatto segue la manifestazione clinica dell'infezione, ma dipende molto dal ruolo giocato delle difese immunitarie. Chi è più debole la manifesta o la manifesta prima e in modo più aggressivo, sì. E chi è più forte può anche non manifestarla o manifestarla dopo diversi mesi. Quindi le regole più fisse valgono invece con le malattie batteriche, tipo la sifilide, la gonorrea, che sono malattie in cui il contagio avviene sempre, indipendentemente dalle difese immunitarie, dopo un tempo ben definito. Ad esempio, per quanto riguarda la sifilide, possono comparire delle lesioni, delle ulcere sui genitali ben visibili dopo circa 20 giorni, seguite da un ingrossamento delle ghiandole linfatiche inguinali. Il problema è che, per esempio, sull'uomo che ha le lesioni sul pene si vedono bene, nella donna non sempre è facile vedere. E quindi alcune di queste malattie hanno dei segni, ma questi segni non vengono riconosciuti. Certo. Questo vale... Io andrei a sentire Maria Cristina, che ci chiama da Palermo, 824 0024. Buongiorno Maria Cristina. Buongiorno, allora io telefono per questo motivo, molto recentemente, proprio l'ho rivelato ieri, l'esito del tampone vaginale che ho fatto e mi dà diciamo una presenza di stafilococco, quindi dato che io non sono ancora riuscita a parlare con il mio medico, ci andrò dopo domani, volevo capire questa diciamo questa cosa, che problemi mi può dare, che cosa significa la presenza di stafilococco. Devo dire che è stata fatta anche la ricerca di clamidia, però è risultata negativa. Quindi volevo sapere questo stafilococco che... Dottor Del Monte, può aiutare Maria Cristina dando anche delle indicazioni per le persone che... Maria Cristina dice giustamente, non ho ancora avuto modo di parlare con il mio medico. Spesso si attende troppo. Parleremo tra poco col professor Moroni di questo famoso periodo finestra. Ma intanto, per aiutare Maria Cristina... Buongiorno, allora deve assolutamente restare tranquilla per quanto riguarda le infezioni sessualmente trasmesse, perché lo stafilococco è un batterio che è residente della zona genitale, fa parte della flora genitale e quindi potrebbe averle dato una colonizzazione della vagina, ma non significa che lei ha contratto un'infezione sessualmente trasmessa. Quindi Maria Cristina può stare tranquilla, mentre professor Moroni, tante persone stanno tranquille a lungo, no? Ecco, voi parlate di un periodo finestra, una persona ha avuto un rapporto a rischio, fa finta di niente, oppure aspetta, no? Perché noi pensiamo che questo periodo finestra sia, ma quanto dura? 20 giorni, un mese, due mesi? Ecco, che cosa si deve fare? Che cosa soprattutto dobbiamo sapere? Ma io penso che la cosa principale, il problema principale è quello di superare le reticenze che ancora gravano su questo tipo di patologie. Le malattie a trasmissione sessuale sono per definizione legate alla vita sessuale, e la vita sessuale tocca la sfera intima della persona, tocca la segretezza della persona, tocca i tabù che esistono ancora nel 2010 attorno alle attività sessuali. Quando abbiamo il dubbio di avere mangiato un cibo contaminato, immediatamente ci rechiamo dal nostro medico per dire che cosa può succedere: ho un po' di mal di pancia, ho avuto una scarica di diarrea. Quando invece abbiamo avuto un rapporto occasionale, anche non necessariamente con una professionista del sesso, e abbiamo qualche piccolo disturbo, che può essere un bruciore, un po' di secrezione, una tensione al basso ventre, eccetera, prima di recarci dal medico ci pensiamo mille volte, proprio perché c'è un qualcosa dentro di noi che ci trattiene dal parlarne. Spesso il medico di famiglia è anche il medico della moglie o del papà o della mamma o dei parenti. Si dimentica che il medico è tenuto al segreto professionale e alla tutela anche circa la diffusione di notizie di questo tipo. Dobbiamo assolutamente superare questa sfera che ci inibisce dall'affrontare il problema delle infezioni a trasmissione sessuale come qualcosa di diverso da tutte le altre infezioni. E scoprirle è facile attraverso degli esami specifici, ma dopo quanto tempo arriva il responso? Questo dipende dalla malattia. Oggi esistono delle tecniche raffinatissime, anche di biologia molecolare, che permettono di raggiungere delle diagnosi con assoluta precisione in tempi brevi. Si tratta di pensarci e di superare queste inibizioni che ci rendono difficile, inutilmente difficile la vita. Ma professore, scusi, ma è una curiosità anche al dottore, chiedo, ma siamo noi italiani che siamo fatti così e voi che avete girato, gli altri sono diversi? Perché per esempio il dottor Del Monte mi raccontava che una storia che poi magari ci può dire brevemente. Siamo noi che abbiamo questo atteggiamento particolare nei confronti del sesso, oppure una cosa abbastanza diffusa anche negli altri paesi? Sicuramente l'Italia è un paese di cultura cattolica, quindi un po' di sessofobia esiste, sicuramente più che nei paesi nordici. Nei paesi nordici, ad esempio, sono più disinvolti e affrontano con più facilità questo argomento. Non è un'anomalia per una coppia da poco formata rivolgersi a un centro MST in piena salute e dire: vogliamo fare gli esami per vedere che vada tutto bene, visto che iniziamo una relazione e non ci conosciamo. È una buona idea questa. È sicuramente una buona idea da incentivare. Che invitiamo a seguire. Intanto io devo salutare Paolo, che ci chiama da Milano all'824-0024. Paolo, buongiorno. Buongiorno, senti, io volevo rivolgermi una domanda al professore. Sì. Io soffro da 3 o 4 anni di herpes simplex e il mio medico curante mi sta facendo fare una cura di Tavalir da 500, un antivirale. Sì. Mi sta facendo prendere quindi una pastiglia al giorno per 15 giorni, poi per 6 mesi. Però io, quando mi vengono le lesioni sul pene e anche sull'ano, mi metto la crema, quella lì, la ciclovirale, e mi passo un po', però ogni mese, durante ogni 2-3 mesi, 4 mesi, mi viene fuori sempre questa forma di herpes simplex. Ma non c'è un modo per debellarla? Allora, grazie Paolo davvero per la sua chiamata, perché ci permette di affrontare un problema che è molto diffuso, anche i numeri lo dicono, professor Moroni. Sì, mi dispiace deluderla Paolo, ma una soluzione definitiva al suo problema non esiste, perché l'herpes simplex di tipo 2, che è quello che colpisce l'apparato genitale, come tutti i virus herpetici, l'herpes simplex di tipo 1, il citomegalovirus, il virus della mononucleosi infettiva, eccetera, una volta contratti non sono più eliminabili dal nostro organismo. Tutto quello che si può fare è un'accurata gestione dell'unico farmaco che c'è, anche se è presentato in diverse specialità farmaceutiche, al fine di convivere al meglio con questa patologia. Il virus dell'herpes simplex si annida nei gangli che danno origine ai nervi che poi arrivano al pene o alle mucose genitali femminili. Se ne sta buono per settimane, per mesi, per anni, ma periodicamente si riattiva. Quindi è un problema che non è risolvibile alla radice, ma solamente attraverso una gestione dei farmaci a renderci la vita più semplice, pur convivendo con il problema. Puntata delicata, un po' scottante, mi ha scritto un ascoltatore. Io credo che, va bene, mi piace che sia scottante, mi piace parlarne con voi. Oggi parliamo di infezioni sessualmente trasmissibili. Il mio invito è: non facciamo gli struzzi. I dati aumentano, bisogna conoscerli, bisogna essere onesti anche con il proprio partner, bisogna conoscere, no, le strategie oggi a disposizione anche per individuare se abbiamo contratto questa infezione. Io penso che ci si ammali anche di ignoranza, e quindi sono molto contenta invece che questa trasmissione quotidiana mi dia l'opportunità di toccare anche argomenti che a molti paiono scottanti. 824 0024 se volete parlarne con noi, insieme al professor Mauro Moroni, al dottor Del Monte, ad Alessandro Pellizzari. Professor Moroni, quando la Chiesa ha detto che l'HIV si trasmette anche con il preservativo, è vero? Ci scrive Andrea. Dunque, il preservativo è una membrana di gomma che si interpone tra due mucose ed è impermeabile al virus dell'HIV. Quindi, quando il preservativo è usato bene, correttamente, fin dall'inizio e per tutto il tempo della penetrazione, e non si rompe, il preservativo è sicuro. Certo, se viene usato male o se si rompe, allora non è più sicuro, ma questa non è colpa del preservativo, è colpa di chi lo usa male. Quindi, per quanto riguarda le infezioni tipo l'HIV e l'epatite B, il preservativo è sicuro. Non lo è per altre infezioni a trasmissione sessuale che si trasmettono attraverso i genitali esterni, come ad esempio la LUE. Allora, un altro SMS, ce ne sono diversi, ma il messaggio è questo: quante e quali malattie sessualmente trasmissibili si contraggono con rapporti orali? E infatti un ascoltatore, Luca, ci scrive: ho capito bene, i rapporti orogenitali non è trasmissibile l'HIV anche con piccole ferite in bocca? Allora, apriamo questo capitolo, dottor Del Monte, anche qua mi sembra che sia necessario fare un po' di chiarezza. Sicuramente, il rapporto orogenitale è una via di contagio molto diffusa e purtroppo sottovalutata, in parte perché è passato il concetto, a mio avviso anche errato, che il rapporto orogenitale non è a rischio per quanto riguarda l'HIV. Invece il rischio è basso, ma esiste. Per quanto riguarda le altre infezioni, ad esempio la gonorrea, la sifilide, l'herpes genitale, invece il rapporto orale è una fonte di contagio, anche quando non c'è il contatto col liquido seminale, perché basta lo sfregamento di due mucose. Un'altra cosa importante che abbiamo notato negli ultimi anni è l'aumento, ad esempio, dell'herpes genitale tra i ragazzi giovani che non hanno mai sofferto di herpes del labbro, dal contatto con le labbra di un'altra persona, in quanto che un tempo si arrivava all'età dei rapporti sessuali con l'herpes del labbro, perché lo si contraeva nell'infanzia dagli altri bambini o dai genitori. Adesso questo non avviene più perché sono migliorate le condizioni di vita, c'è meno promiscuità, e il primo contatto con questo herpes, che una volta dava problemi al labbro, lo si ha e si hanno con rapporto sessuale, e quindi compare l'herpes genitale da herpes 1. E questa è una cosa su cui riflettere, soprattutto per i più giovani. 824 0024, abbiamo Massimiliano da Milano, Angelica da Messina e Luisa dalla provincia di Udine. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, siamo qua. Guardi, io chiamavo perché ho lavorato per una decina d'anni in una organizzazione Onlus che fa interventi sociali a Milano. Sì. Lavoravo nelle scuole con interventi di prevenzione, andavo a spiegare cose simili a quelle che state dicendo in onda, e ho lavorato tantissimi anni anche nelle discoteche di Milano. Sì. Io credo che sia importantissima la trasmissione che state facendo, perché c'è una percezione del rischio molto molto molto bassa. I ragazzi hanno quasi in testa l'idea, è vero che oggi c'è una farmacologia che tiene a bada anche una persona che ha contratto l'HIV, ma comunque non è una vita normale. Certo. E soprattutto però si parla solo e spesso solo si parla tanto di HIV quanto pochissimo di tutte le altre malattie trasmissibili sessualmente. Io quando entravo nelle scuole il preservativo, ahimè, è visto come un metodo di contraccezione. Lo so. Io ho due figli, parlo credo a quest'ora soprattutto ai genitori in ascolto, e suggerisco invece di non considerare il preservativo come un metodo contraccettivo, ma noi lo distribuivamo in quanto presidio medico-sanitario, nel senso che va distribuito, si deve sapere come utilizzarlo per poi non utilizzarlo male, quindi renderlo magari insomma inutile, certo. Inutile, ecco, ma ci sono tantissime sono Massimiliano, noi adesso parliamo ai genitori, agli adulti, perché se gli adulti non sono informati, come possono formare i giovani? Questo ci chiediamo. Grazie Massimiliano per la sua testimonianza. Andrea D'Angelica che ci chiama da Messina, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Volevo fare una domanda relativa alla candida. Mi è capitato l'anno scorso purtroppo di contrarre queste... Angelica, la richiamiamo perché abbiamo dei problemi con l'audio. Andiamo a Luisa che ci chiama dalla provincia di Udine. Luisa. Sì, buongiorno. Io volevo avere delle informazioni sulla HPV, sul papillomavirus. Sì. Che mi hanno spiegato che viene contratto anche sessualmente. Sì. Io sono già stata operata, mi hanno spostato una parte del collo dell'utero. Ora, avendo un compagno fisso, sì, quello che mi domando è, visto che ha un virus e non può essere debellato, se può essere comunque, se posso soffrirne ancora, eventualmente come si può riconoscere nel maschio. Allora, un dottor Del Monte. È un argomento difficile, ma cercherò di essere semplice per spiegarglielo. Lei è stata operata probabilmente di un'infezione del collo dell'utero da parte dell'HPV. L'HPV, alcuni tipi di HPV sul collo dell'utero possono favorire un'evoluzione tumorale e quindi sono pericolosi per le donne. Una volta operata, la donna difficilmente ha una recidiva in seguito a una reinfezione. Mi spiego meglio. Se il tumore dovrà tornare, le tornerà perché le sue difese immunitarie non saranno in grado di controllarlo, ma non certo perché lo riprenderà dal suo compagno, dal suo partner. Tra l'altro, l'HPV nel maschio di solito non dà alcun segno, non ci sono lesioni su cui si può fare ad esempio un esame. E anche se trovassimo una positività non ci sarebbe una soluzione, perché non si potrebbe eliminare questo virus non visibile dalla superficie del pene del maschio. Quindi? Quindi è non deve esistere la preoccupazione di reinfettarsi dal partner. Alessandro, il vostro è un servizio dedicato principalmente alle certo. donne, no? Infatti tu sì. hai aperto dicendo attenzione, i maschi italiani, hai detto, sono più superficiali delle donne italiane. Ecco, quindi ma ce lo dicono i dati. Non è che lo dici tu, naturalmente. Ecco, e stiamo vedendo che alcune di queste infezioni sono più pericolose per le sì. donne. E altre sono più pericolose per gli uomini. Anche nel vostro servizio emerge questa differenza. Sì, fra l'altro in questa trasmissione abbiamo capito una cosa importante, che ci sono delle malattie che poi non ci lasciano più. L'ascoltatore con l'herpes purtroppo si è sentito dire al professor Moroni che dovrà conviverci almeno finché non scopriranno qualcosa di più particolare. Però la gravità di certe malattie è proprio il fatto che uno per una volta o per due volte, per una disattenzione, per una superficialità, poi si porta dietro per una vita queste rotture sostanzialmente. Certo. Però non basta, come dicevi tu, c'è in giro una malattia che molto spesso è asintomatica, che si chiama clamidia, E che è una malattia che sta facendo uno sfacelo dal punto di vista della fertilità della donna, perché riesce ad arrivare alle tube e a creare anche dei grossi danni. E siccome l'infertilità sta crescendo un po' perché si fanno i figli, le donne fanno i figli a 35 anni, e questo purtroppo, voglio dire, è legato alla nostra società, ma anche per queste cose, vero? Professor Moroni. Ma sì, direi che la donna fondamentalmente rispetto al maschio rischia di più. La mucosa, sempre. La mucosa genitale femminile è più ampia. Nel rapporto sessuale si infiamma in un certo senso, quindi diventa più permeabile e più recettiva nei confronti di microrganismi patogeni, ed inoltre riceve una quantità di liquido biologico come lo sperma che è superiore rispetto a quella che viene a contatto con l'organo genitale maschile, che peraltro ha una mucosa molto più limitata rispetto a quella della femmina. Quindi la donna rischia di più per quanto riguarda le infezioni a trasmissione sessuale, ed è anche il sesso che può avere le conseguenze più gravi e permanenti. Paradossalmente invece nella nostra civiltà, ma anche direi nella maggior parte delle civiltà, la sessualità è gestita dal maschio. Quindi ci troviamo di fronte a un paradosso: il sesso più fragile, il sesso più debole, il sesso che paga il maggior prezzo alle infezioni a trasmissione sessuale, è quello che subisce fondamentalmente la gestione della sessualità. L'invito è a tutte le donne ad essere protagoniste della propria sessualità, non accettare di avere rapporti con persone di cui non si conosce lo stato di salute sotto il profilo sessuale senza il preservativo. Eccoci, abbiamo Rino che ci chiama da Napoli. Buongiorno Rino. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere questo: essendo portatore di virus dell'epatite B, portatore sano, avendo una compagna che ha effettuato il vaccino, è comunque sconsigliabile avere dei rapporti non protetti? Professor Moroni. No, innanzitutto, sa, essere portatori del virus dell'epatite B può voler dire tante cose. Potrebbe essere un portatore inattivo, cioè una persona che ha avuto un'epatite B, che continua a produrre un antigene che è l'HBsAg, ma che non fa più virus. All'estremo opposto può avere un'epatite attiva con una carica virale molto alta. L'infettività sicuramente cambia. Comunque, se la sua partner è stata vaccinata correttamente con le tre dosi ed ha un titolo anticorpale protettivo, non è più suscettibile di contrarre l'epatite B. Quindi da questo punto di vista può andare sul sicuro. L'ematuria nelle urine può dipendere da infezioni sessualmente trasmissibili, ci scrive. Quali sono i segnali, professor dottor Del Monte? L'ematuria, cioè il riscontro di tracce di sangue nelle urine, dice raramente una malattia venerea si manifesta così. Può succedere con una gonorrea fortemente infiammatoria oppure con la presenza di condilomi all'interno del meato urinario che sanguinano, ma è molto raro. Di solito sono problemi non di tipo infettivo, per cui è bene consultare un urologo, dai banali calcoli renali a qualcosa di più grave. Dottor Del Monte, prima di passare la parola al professor Moroni, perché vorrei sottolineare tre concetti chiavi ancora per l'HIV, come diceva Alessandro, come riportato nel mensile Star Bene, gode di ottima salute, nonostante esatto. Tutto. Allora, proprio sinteticamente, se uno ha avuto un rapporto a rischio, non aspettare, ma oggi si può vedere, capire se si è contratto una qualunque tipo di infezione. Ma quali sono i segnali? Facciamo un passo oltre, la persona non l'ha fatto. Quali sono i sintomi, campanelli d'allarme che devono far capire alla persona che sa di aver avuto un rapporto a rischio, o magari no, perché ormai cresce anche il numero di persone che pur no, in un rapporto di coppia stabile, si infettano. Allora, quali sono i segnali campanelli d'allarme che devono far capire che è ora di andare dal medico a parlarne per poi fare gli opportuni accertamenti? Quindi, abbiamo detto. Allora, per quanto riguarda gli uomini, e qui è più facile, i segnali sono bruciore a urinare o perdite che fuoriescono dal pene, oppure comparsa di piccole ferite, vescicole, ulcere sui genitali, o di associate generalmente a un gonfiore della ghiandola linfonodale dell'inguine, oppure la comparsa di escrescenze carne che poi vengono definiti da un punto di vista medico condilomi, che sì, sono verruche. Non sono nei, non sono cose strane, no, bisogna le creste farsi vedere. Di gallo, le cosiddette creste di gallo, che non fate finta di niente. Compaiono a un certo punto e aumentano, a differenza dei nei che sono stabili. Invece, per le donne è più complicato, e anche per gli omosessuali maschi, perché i sintomi che derivano dalla cavità vaginale o anche dalla cavità anale sono più difficili da inquadrare, e quindi genericamente si va dalle perdite o ai bruciori. Però io consiglio alle donne e agli omosessuali maschi, se hanno avuto un rischio, di fare gli esami indipendentemente dai sintomi, dopo che siano passati circa 15 giorni. Professor Moroni, noi dedichiamo puntualmente trasmissioni dedicate interamente all'HIV e quindi all'AIDS. Che cosa, quale messaggio oggi possiamo dare alle persone insospettabili, a quelle che pensano che tutto sommato è un problema degli altri e nel caso peggiore si cura? Professore. Ma dunque, incominciamo da quest'ultimo punto. Il fatto di avere attribuito ad altri l'infezione da HIV è stato un bel espediente attraverso il quale la popolazione generale ha ritenuto di non correre nessun rischio. Nel momento in cui si dice è una roba per tossicodipendenti e per i gay, inconsapevolmente si dice io non c'entro. Questo è stato un grosso errore e continua ad essere un grosso errore. L'HIV è un'infezione a trasmissione sessuale, quindi tutte le persone che hanno rapporti occasionali con persone di cui non sanno lo stato di sieropositività rischiano di contrarre l'infezione, e questo è quello che osserviamo tutti i giorni, da anni, in Italia e in tutto il mondo occidentale. Non siamo più di fronte al numero di infetti degli anni 80 e 90, però siamo ancora di fronte ad un numero di infezioni che è intollerabile, se si pensa che basterebbe pochissimo per evitare il contagio, un contagio che una volta contratto resta per tutta la vita. Allora, io prima di salutarvi e di salutare gli ospiti di oggi voglio dare il benvenuto al professor Paolo Nucci, professore di oculistica all'Università di Milano, all'Ospedale San Paolo. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Intanto abbiamo un minuto e mezzo per commentare questo successo, cornea artificiale su bimba di 10 mesi. Per i medici si tratta della prima operazione del genere in Europa, è successo al San Paolo. Professor Nucci. Buongiorno a tutti quanti. Allora, grazie per le parole, sempre la gentilezza per chiamarmi sempre in queste occasioni. Ricapitolo in breve questa avventura a lieto fine, possiamo dirlo adesso. Si tratta di una bambina che è nata all'estero, è stata inviata a noi per una grave malformazione palpebrale, in realtà c'era un'assenza totale della palpebra superiore che aveva già procurato un grave danno corneale. Sì. La cornea è la prima lente trasparente dell'occhio, quella per capirci attraverso cui noi vediamo il colore dell'iride. Sì. La cornea era molto vascolarizzata. In un primo tempo, insieme al professor Brusati del San Paolo, abbiamo ricostruito la palpebra superiore, poi a distanza di qualche mese, giovedì pomeriggio scorso, abbiamo innestato questa cornea artificiale che ha una specifica indicazione nei casi in cui il rigetto è molto probabile, cioè sì, sia in età pediatrica sia negli adulti che hanno tessuto corneale già vascolarizzato. L'intervento è stato pensato dopo che ho inviato uno dei miei specializzanti a frequentare un reparto a Rochester negli Stati Uniti che ha grande esperienza su queste patologie malformative, e devo dire che è stato proprio lo specializzando più giovane di noi che ci ha spinto tutta l'equipe perché ci cimentassimo con questa chirurgia piuttosto impegnativa. Quindi questa è una lezione le giovani energie possono veramente trasmettere informazioni e tecniche. Intanto, professore, la bambina sta bene. Io sono contenta di dare questa bella notizia. Radio 24, come sapete, è la radio ufficiale degli ipovedenti e i non vedenti. Professor Nucci, grazie, complimenti. Complimenti. Mi fa ringraziare solo gli infermieri e gli anestesisti, senza i quali non potremmo mai fare queste cose. Grazie, questo grazie. Mi fa ancora più piacere. Buona grazie. Giornata al professor Nucci, al professor Moroni, al dottor Del Monte, ad Alessandro Pellizzari, a voi che ci avete seguito. Io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11.